Tardi, la Gentileschi aveva imparato a scrivere. Le aveva insegnato il marito ai tempi di Ripagrande, nei giorni di festa. Lei, sdraiata sul lettuccio terragno e seguendo con l'occhio un poco indolente le linee stampate di uno qualunque dei libri che Antonio portava a casa insieme al legale, agli argenti e alle sete del suo commercio. Ma nel corsivo non si ritrovava e a lettere di stampa aveva scritto da allora, quando non ne aveva potuto fare a meno. Odiava lo scrivere che distrae dall'attenzione del segno e del disegno. Che si sia valsa di segretari tutta Napoli ne è informata, e se Artemisia ha peccato, questi segretari, l'ultimo fu Diego. Non di lussuria, in lucida calma, ora riconosce di averli usati come strumenti di vanità, dimostrazioni di come una donna valente può farsi servire da uomini che sanno di lettere, nati bene e bisognosi. Il resto accadeva per pietà e qualche volta per caso. Davanti alla terra di Albenga, quella chiara mattina, scoprì anche di non curare affatto che a Napoli si è potuto dire e sospettare di lei. Conti malfatti, storie fastidiose, ridicole, finivano sempre per urlare i segretari come servette scacciate, per scappare con qualche moneta di troppo. Avvenne quel che avvenne, neppure in punto di morte se ne tormenterà più. Piccole cose, da confessore, che Dio non c'entra, neppure la Vergine Maria. Artemisia è cattolica romana. Ma a Marsiglia si accorse che un segretario le mancava. La navigazione era stata rapida e tranquilla, come sul latte, dicevano le viaggiatrici avvezze agli scomodi, meravigliate e contente. Con un venticello amoroso che sollecitava le vele. All'arrivo, porto e città bianchi di ciottoli e di sole, ma un sole quieto, senza fulgore, da malati che hanno speranza di salute. Una fortuna, insomma, e l'osteria fu buona, sebbene con l'occasione di fare onore a certe fregate vittoriose dei turchi, tutta la notte si facesse baldoria per le strade con fiaccole e balli, cosa nuova. Accordata con due mercantesse che tornano a casa loro, a Lione, Artemisia aspettava di montare in vettura, seduta nel cortile dell'alloggio e col bagaglio ai piedi. Il tempo le passava, guardando una ragazza in gonnella di scarlatto che tirava l'acqua dal pozzo con certi gesti di braccia e mani che in Italia non si praticano. Ecco che pensò non a dipingerla, ma a scrivere. Che in Marsiglia una giovane manierosa e svelta e coi gomiti bianchi da incantare pareva Anna Spasse tirando il secchio. Dietro questa immagine e questa espressione così semplici e nette, altre ne corsero di luoghi o di cose, e voci e parole udite si aggiungevano, prestandosi a comporle in mente un discorso, un racconto che non avrebbe voluto perdere né dimenticare. Per non perderlo, e parlare poco si può che non intendo l'italiano, bisognerebbe affidarlo a qualcuno, scrivere una lettera. Artemisia vuol scrivere una lettera, non delle solite al fratello Francesco con quattro parole, ma una lettera lunga e riposata, e non sa a chi né come. La carrucola del pozzo cigolava, la lettera era come cantata. Mentre la dolce mattina allegra scendeva col sole nel cortile di pietra fredda, si mise a cantare anche la ragazza, posando in terra il secchio e asciugandosi le braccia col grembiale. Il motivo era svelto come il suo dipanare, ma allegro non era e non somigliava a nessuno di quelli che cantano a Napoli e a Roma. Con un movimento all'indietro della testa incuffiata di bianco, la ragazza afferrò il secchio per il manico. E se ne andava, e Artemisia beveva ogni cosa con gli occhi e con le orecchie e con gran gusto raggruppava parola a parola la sua lettera non scritta. Sulla lingua, che alla muta così si esprimeva, ebbe il senso e il gusto del viaggio, un gusto privatissimo. Nessuno, pensò Artemisia, sa che io sono qui, su questa panca, in questo cortile, seduta come fossi in casa mia e dovessi rimanerci per sempre. E da allora, per tutto il cammino, finché poté, ricercò quel modo di coincidere col caso soltanto, da cui fluivano lettere scritte senza penna, che le tenevano luogo di pennello e di compagnia. Il 7 ottobre, giornata di sole dolce come vino, ebbe un crepuscolo che parve di cupo inverno e Madame Artemisia non pensò a scrivere quanto avesse avuto paura in quell'osteria che era la sola donna che ci fosse e gli uomini di sotto li avevano guardata a lungo lei e le sue valigie. Uno stalliere puzzolente orbola accompagnata quassù, fra i topi e la paglia. L'uscio neppure chiude, bisogna tirarci contro una cassa chi voglia difendersi. Lei si è levata le scarpe per non essere intesa e si è affacciata al ballatoio. Di sotto gli uomini bevono e ogni tanto parlano, sommesso e breve. Belle femme, udì e riconobbe, e poi a più riprese, argent, argent. Poco, poco capiva la lingua, se non per le frasi solite dei postiglioni e albergatori. Stette sveglia tutta la notte, senza cena, così abbandonata da non parerle possibile che chi le aveva voluto bene non l'assistesse. O Antonio provò a dire, dopo tanti giorni che non le avveniva, ma senza intenzione precisa, per saggiare se stessa, la sua solitudine e quella pena logorata e smorta che pareva tristamente smarrita. La sua invocazione rimase povera, inutile, come una scommessa perduta in partenza. Fu tuttavia da quella notte che scoperse di rivolgersi con le sue lettere fantasticate proprio a suo marito, il solo fra chi le era stato accanto, che non intendesse la pittura, ma gustasse con molta semplicità certi aspetti accidentali delle cose e degli uomini. Discorsi colti a mezzo, modi di parlare, costumi insoliti e diversi, proprio le annotazioni istintive e casuali del suo viaggio. Quel poco che le aveva raccontato dei propri per la campagna era popolato di carrettini rovesciati, di casolari con bella vista, di begli alberi, di greggi ricchi, avvenimenti non più insigni di un bambino cascato malamente e che il passante benevolo ripulisce dal fango e dalle lacrime, di un pesce strano ma buono servito a tavola. Viaggiando, pensa Artemisia, sarebbero andati d'accordo. Lei ormai è così lontana da non vedere più la moretta che ha preso il suo posto e verso Antonio le pare di essere tornata alla condizione familiare, ovvero ovvia ma protetta dei suoi anni di moglie, perché infine nessuno ha detto che il suo matrimonio sia sciolto, che il nuovo sia celebrato. Dove non c'era più che cenere, un presagio di morte, una perfida abilità a soffrire, si leva un'ostinata promessa. Un gusto di vita tranquilla e indulgente, quasi una lettera avesse raggiunta la viaggiatrice e l'avesse rassicurata, guarita miracolosamente e per sempre. Questo presentimento fu certezza il 19 ottobre, durante le ultime leghe prima di Bonn, e le rocce brulicavano di capre nere, bianche e brune, persin bionde, ferme a barba levata fra gli arbusti a veder passare la vettura come persone. Il benessere che Artemisia aveva addosso se lo sentiva per le spalle e sul petto in forma di calore e aveva voglia di discorrere contro il suo solito, talché, sollevata sulla vita, il capo allo sportello, non si stancava di osservare i viandanti, che erano villani sull'asino, come in campagna di Roma, e accettò metà della mela che sbucciava il frate, da poco salito, con un suo coltellino sporco, lei così schizzinosa. Giustamente, svoltando la carrozza per entrare nel cortile dell'alloggio, questo benessere cadde come un vento che si posa e non si sa cosa possa succedergli. Le gambe le mancarono per scendere. Fu l'ultima di tutti. A fatica raccapezzò il bagaglio perché la testa le ardeva, torbida. L'osteria era scura, già notturna e fredda. Il fuoco nel camino non scaldava. L'occhio della padrona la scrutava. E il letto, finalmente ottenuto dopo un patteggiare confuso, le ripugnò come un tranello. Stesa e sola da ultimo, ma senza essersi neppure spogliata, sentiva di galleggiare alla deriva, perduta. Anche le sue idee galleggiavano, cozzando l'una contro l'altra, finché non riuscì a riunirle in un concetto, in una constatazione. Aveva la febbre e c'era sospetto di peste in Francia. Forse era già la seconda sera di quella che incupiva le impannate, da 24 ore o da un minuto. La servetta aveva posato il lume sul tavolo e dal bicchiere dimezzato non si rammentava d'aver bevuto. Mi sentivo bene, si ostinava a ripetersi, ricercando in queste parole un pegno di salvezza. Aveva paura? O le piaceva di avere paura. Si ricordava di aver desiderato la morte in viaggio per un qualunque accidente e che nessuno lo sapesse. Forse anche queste circostanze di giacere, di essere ammalata, non erano che un desiderio fortemente espresso, una presunzione, come quando aveva creduto nella potenza della burrasca marina e non ne fu nulla. L'istinto di scrivere una vera lettera con carta e penna li aveva domandati, era anch'esso un'illusione. Tuttavia, si ostinava a cominciarla con termini precisi. Caro fratello, trovandomi in pericolo di morte, scriveva davvero o sognava di scrivere? Qualcuno respirava a fatica accanto a lei. Era una vergogna che non la lasciassero sola. Poi sentiva nella sua gola secca l'ultimo anelito di quel respiro aspro. Si svegliava, si stupiva di aver dormito di giorno pieno. Che mai le era successo anche a Napoli nelle ore calde? Ora caldo non è, il suo sudore è freddo e di nuovo cala il crepuscolo. Il fico nodoso e cupo, l'albero del tradimento e del rimorso, che s'affaccia alla finestra, suggerisce immagini di agonia, la necessità di arrendersi in confessione. Quando starò meglio, consiglia una strana malizia ottimista, l'istinto della febbre che cede, e Artemisia si ritrovò debolissima e sana, stracca, dimagrita, derubata, guarita senza elettuario e senza lancetta, e non ebbe più voglia di scriver lettere. 20 giorni stette ferma in quell'alloggio montano, da un'ora all'altra silenzioso come una tomba o assordante come una fiera. Si incantava a guardare il fico che adesso perdeva le foglie, ravvolte in panni grossi che lo stessa le prestò contro l'umido del luogo, tutto uno stillare di acque. Pioveva. La giovinetta serva non aveva più paura d'accostarla. Il sospetto di peste s'era dileguato e quando non capitavano viaggiatori, la ragazza si fermava a cantarle certe canzonette malinconiche che erano divenute il loro linguaggio comune e segnarono l'ora dei pasti, i progressi della convalescenza, il giorno che poté scendere in cortile a prendere un po' d'aria. Quando Delfina cantava, dimenticava d'essere serva d'osteria e non pensava a far nulla. Le braccia le si distendevano lungo i fianchi e la sua bocca morbida, dolcemente increspata di suono, rimaneva semiaperta, quasi attenta a una risposta. Così la disegnò Artemisia su un sudicio cartone, mentre di sotto strepitavano vetturali e viaggiatori e la padrona la cercava. Nessuna delle due se ne accorse, sicché la ragazza fu scacciata e l'italiana non seppe neppure che era partita all'alba, sotto la pioggia, per la sua capanna fra i boschi, a piedi per 20 leghe a patir la fame. Il ragazzino, travolto dai cavalli della vettura che la portò a Digione, giù per la discesa di Noa, era suo fratello, faceva lo spazzacamino e ritornava a casa con un sacco d'avena troppo pesante per le sue spallucce. In quel momento Artemisia dormiva, la testa emaciata riversa sul duro schienale. Non vide il sangue che si mescolava alla terra, in così gran copia che era meraviglia nel corpo di un bambino. Il postiglione disse: un morto fuori, una morta dentro, frustando i cavalli, che aveva gran fretta. Una morta davvero, pareva Artemisia, così magra e smunta, a occhi chiusi. 2 giorni si riposò a Digione, uno a Troyes, uno a Nogent, ma a spasso per le città non andava. Aveva fatto amicizia con le stanze strapazzate delle osterie, dove cercava invano servette cantatrici come Delfina. E poi non aveva denaro per la carrozza, né fiato per girare a piedi. Stava imparando i suoni della lingua e sempre meglio le riusciva di riconoscerci frasi e modi che non avrebbe saputo ripetere e che le sembravano sempre gli stessi. Massimamente procedendo verso Parigi, che ognuno le chiedeva con premura se andasse fin là. Lei rispondeva di sì e aggiungeva per Inghilterra, ma si dovette accorgere che questa notizia non piaceva ai viaggiatori e c'era spesso chi la guardava con sospetto. Sui primi di novembre le ritornarono i colori e principiò a risentire, ma con una nuova intolleranza, quel belle femme dettole in faccia la prima volta a Marsiglia da un gradasso dalla mano lunga. Non occorreva parlare francese per capire, ed era per lei uno stupore quasi stizzoso, come se un brutale accattone avesse ritrovate le sue tracce e non si stancasse di importunarla. Essere ancora bella alla sua età e coi segni di quell'età sul viso le parve un segno di vergogna e una beffa, e non fu per pudore che si difese a Provins. dai goffi assalti del gentiluomo campagnolo che era salito in vettura col suo cane. Per indignazione fredda, quasi col gusto di menar le mani, nel corridoio oscuro dell'osteria, dette di gomito nella barbaccia dell'uomo. E così, avesse avuto un'arma, se ne sarebbe servita a furia. Si ritrovò crudele, quasi sanguinaria. Non aveva impugnato il coltello contro Agostino, non aveva dipinto il grosso sangue di Oloferne. Così di nuovo si vendicava di essere donna, perché di essere donna di nuovo era stanca. Ma donna rimaneva e a Parigi si risolse di alloggiare da monache. Perché delle osterie, sempre più affollate e fragorose, non le pareva di doversi più fidare. Chiostro, cappella, giardino da re, grandissime sale, ma il fango alla porta di strada rendeva impossibile l'uscire a piedi. Come a Genova, lettere da presentare ce n'erano tante, tutte procurate a Roma dal diligente Francesco, e portavano i nomi dei più grandi signori di qua, gente di corte, religiosi di polso, artisti di reputazione. Ed ecco che, come a Genova, Artemisia si fa pigra e svagata, lenta a vestirsi la mattina, e passerà magari 2 ore a guardare dalla finestra come cadano le foglie nel giardino del monastero. Fare anticamera, inchinarsi, sorridere, fingere o sforzarsi di capire, sostenere il proprio nome, questo gran fardello che pesa così poco in solitudine, sono le faccende che ripugnano alla pittrice. E di chi ha bisogno, dopo tutto? 100 e più tele ha dipinto, di cui non era scontenta, e sono appese a nobili pareti in buona luce, laggiù, in Italia. Qualcosa esiste a dimostrare che Artemisia ha vissuto, che una donna sa dipingere come un uomo, meglio, magari. È tardi per maggiori ambizioni, è presto per rinunciare a soddisfarsi. Dipingerà ancora, ma non per il Monsignor di Guisa o per il Connestabile. Lei va in Inghilterra. È in convento per la prima volta e le piace di averlo sempre presente, di gustare una condizione a cui suo padre l'aveva destinata per scamparla dai guai e che a momenti le è sembrata una magnanima dimostrazione da tenersi in serbo per chiudere la vita. Le monache, per male che ne sentisse dire, le ha sempre onorate con pungente nostalgia di peccatrice, e lo intendeva Porziella, che per contrastarla si affidava alla reverenda madre e ne copiava i modi. Era, costei, una donna lustra e grassa, di lingua potente, sebbene un po' blesa, e Artemisia la temeva, ma qui, introdotta e non assistita, anzi lasciata a se stessa come ospite, fu soltanto la quarta sera del suo arrivo che, dietro un tavolo dal tappeto rosso, stirato agli angoli con un rigido appiombo, vide la madre superiora in figura di nana. Una nana contraffatta nel viso, gli occhi come due tumori lividi, e reggeva nella corta destra un greve pastorale di ebano e oro. Le sue vesti di lana fine erano orrendamente attillate. Un'altissima anziana pencolava su di lei e, facendosi un cino, arrivava al suo orecchio. La nana era giovine e pronta, rispondeva velocissima e anche rapidamente si muoveva, trascinandosi come su carrucole snodate in ogni direzione. La sua disinvoltura deforme era arrogante e signorile. Oltrepassando il tavolo, si mosse verso Artemisia e la fissava senza benevolenza, con un ghignetto di malizia contenta. «Belle personne!» sussurrò, quasi ammiccando a se stessa, e alzando il pastorale si avviava all'uscio. Due novizie dai veli bianchi si affrettarono dietro di lei, piegando le loro giovanili stature a tutelare e a servire quella mostruosità preziosa. Dalla porta in fondo alla sala poteva scorgersi una siepe di donne, di vedove, come l'acconciatura dimostrava, ritte ad aspettare. Di notte, quando gli alterchi delle strade cessavano, che sempre si litiga a Parigi, e risate, beffe e canti si spengevano sui passi lontani delle pattuglie e delle gioiose brigate, il silenzio del convento cominciava a brulicare di fruscii, di picchiettii, di sussurri, che di colpo cessavano, riaccendendosi poi di andito in andito. Un uscio sbatteva, pareva d'esser certi che qualcuno corresse precipitosamente a piedi scalzi. Una volta si intese una voce giovane e disperata implorare distintamente «Por amor de Dios!», mentre un oggetto pesante, trascinato a fatica sul pavimento, faceva vibrare le pareti. Di giorno tutto è tranquillo, tutto è ordine, i campanelli misurati, le converse in ginocchio non finiscono mai di lustrare pietre, legni e metalli. Imbracciando le larghissime gonne per non sporcarle, passa Madama di Lorré, vedova pensionata a vita, intrigante in esilio, unta di canfora da capo a piedi. La segue il gatto bianco dalle gambe lunghe, dal muso triste di fantasma. Si ferma e domanda a voce alta, echeggiante da sorda a sorda: Andate a corte? Tutti vanno a corte a Parigi. Ma Artemisia rimanda l'uscita di giorno in giorno. Non sballa i suoi quadri, neppure i quadrucci destinati a complimentare i protettori. Questo, aveva insinuato Francesco, a Monsignor Nunzio, che lo presenti al cardinale. Questo al signor di Béthune, forse il re lo vedrà. I nudi di femmine dovrebbero piacergli. Ancora una volta, seduta presso la finestra, una finestra da cui si vedono tetti aguzzi e lontano il Pont Neuf con la lanterna, Artemisia piglia soprappensiero la matita e abbozza di memoria la testa di Delfina, larga di zigomi e incantata di canto, con quella smorfia geniale e sorridente di una così gentile malizia. Verde, piombo e cerussa. Che altro per il volto di Delfina, color di terra affaticata. Ma le vedove del parlatorio prima la discussero a lungo, poi non ressero alla curiosità d'accostarla. Se per farsi capire, il nome lo pronunziavano già, a modo loro, della condizione non parevano persuase. Subito domandarono dell'età, quel numero, 40, afferrato come una preda, parve riempirle di gioconda sorpresa e se lo ripetevano con ammirazione. Vedova? Vedova, sì, rispose Artemisia con gli occhi a un tratto pieni di lacrime. Divenne il loro balocco. A tutte le ore la visitavano in camera. Qualche quadro fu sballato per forza e i quadrucci di omaggio passarono nelle loro mani, richiesti con ardore, mercanteggiati con furore. Fissarono di portarla a spasso. Bisogna visitare Parigi. La menarono al Palais de Justice a tastar merletti e sete che nessuna comprava, ma la regalarono. Pescando nei loro cassetti le offrirono un vecchio ventaglio, del belletto rosso, pastiglie al benzoino. Un'intera mattinata la costrinsero ad aspettare sotto le torri del Pont Neuf. La carrozza del Richelieu, mai aveva visto tanti funamboli suonatori, facchini, soldati, asini, pecore, cavalli, tutti lesti in tripudio arrogante e battagliero, anche le bestie che scalciavano a benedizione. Le rubarono il suo bel fazzoletto di seta carnicina, ma accortasene, mai volle dirlo, sebbene ne sospettasse un fanticello a piedi e ginocchi nudi che tirava su dal naso, con gli occhi spaventati, e somigliava a Delfina. E mentre lo guardava, la tirarono per la falda, per la manica, la presero per mano e la trascinarono quasi sotto i cavalli del cardinale Richelieu. Come un lampo passò la carrozza scortata da una mano di cavalieri sfrenati e rossi che le pietre e sino il fango ne sprizzavano scintille. Quasi si sgomentò sentendosi fragile su quella piazza avida e gremita, sotto un cielo basso tutto grigio, e nessuno curava se piovesse. Dopo si rammentò d'aver visto allo sportello scintillante un cagnolino, no, un gatto, bianco e piccolo, molto spaventato. Di lì a poco le mutarono stanza d'autorità, come fosse una monaca davvero, e dalla cella che occupava la passarono in una gran sala nuda, freddissima in quel novembre. Il letto era chiuso nel muro e misurava quanto uno stanzino. 15 cavalieri facevano intendere le vedove, con le dita aperte a ventaglio, che ci avevano dormito comodamente al tempo del gaio re Enrico. Quelle donne la condussero finalmente al Louvre, una fiera di gente che parlava a gragnuola, tossiva, sputava senza pulizia né riguardo, che in terra ci pareva un lago. E poi si rompeva le costole per capire nella galleria dove passeggiava il re. Pestata, sgualcita, mal difendendosi dalle manacce dei nobili provinciali, vogliose e prepotenti, Artemisia torna a risentirsi, perde la calma, si sdegna in italiano e recupera l'antica albagia. Questa corte non le gusta, che lei è tutta di Spagna e va a Londra. Sorte che le vedove non intesero e quei nomi parvero loro termini di paragone tutti a vantaggio di Parigi. La pittrice, per l'ira, divenne molto rossa, anche senza belletto. E perché le compagne s'eran cacciate in mente di veder cenare il re, non le fu difficile perderle tra la calca. Quando Artemisia è adirata, teme un esercito. La petite blonde, che quella sera diede una ceffata a Cinq-Mars, e a cena lui non finiva di riderne, mescolato alla folla, era lei che al lume delle torce gli parve una giovinetta piccante. E sola se ne tornò al suo convento, Madame Artemisia, senza chiedere la strada a nessuno, guazzando nel fango arditamente con le ricche gonne fradicie. Lo sdegno, il disgusto la riscaldarono sin nel letto freddo, dove si addormentò di colpo. Fortuna che le durassero sino all'indomani e oltre, che le vedove la motteggiavano per essersi perduta, per i suoi fini, dicevano. Lei si rimise in contegno, fece alla meglio i conti di cassa, vide che c'entrava da noleggiare una carrozza almeno per 4 giorni e si fece portare in giro, finalmente, a presentare le lettere scelte fra le meno impegnative. Sperperò così le 4 tele di imperatore destinate alla regina Enrichetta, donandole d'impulso e senza ragione a gente screditata. Un creato del Pussino, caduto allora in disgrazia, un capitano milanese che tornava in Italia, l'orfana zitella di un pittore limosino che era stato a Roma e aveva empito la casa di Anticaglie. Con costoro, stupiti e divertiti, seguitò a sfogare, spiegando a voce alta e colorita che in questo paese non potrebbe vivere, popolo indiscreto, strade da pezzenti, il pane cattivo, attillature ridicole. Pur focosi e permalosi, tardi i francesi avvertivano le offese e pensavano a come avrebbero dovuto rispondere. Bernatale, il militare, raccontava a Milano di aver incontrato a Parigi la donna più stravagante del mondo. Ma già Artemisia aveva ripreso il suo cammino. Il moto delle vetture, subito, passivo, ricominciò a tenerle luogo di attività, placò quel fervore di faccende e di parole non convincenti eppure necessarie, ormai a staccarla, senza scopo preciso, dai luoghi dove si fermava, o ci sarebbe rimasta per sempre. Di tappa in tappa, sui sedili di cuoio logoro, riprese a nutrirsi di pensieri torbidi, svolti e riavvolti monotamente intorno a immagini di vita irrevocabile, disapprovata, non mai finita di soffrire. La campagna era una landa nuda, la gente più nuda ancora, nel freddo settentrionale. Pelle di terra livida, ginocchia macilente, o rossori violenti, frenetici, accorrevano alle fermate delle vetture i bambini col loro fischietto di legno, il bastoncino mondato e cani pelosi imbrattati di creta. Pareva non sentissero fischiare quel vento aspro e cadere la pioggia rude. Sulla soglia delle capanne, dal tetto di paglia marcia, le madri bel sangue di donne alte filavano dalla conocchia, mentre sciami, bambinette industriose, circolavano recando per i viaggiatori brocche di latte, focacce grigie di cenere e quel loro sidro. Instancabilmente, sporgendo il viso ritornato pallido e greve e grave, Artemisia fissava quella povera canaglia sparuta con cui le pareva avrebbe potuto intendersi meglio che con la plebe di Napoli non fosse stata la lingua sempre più astrusa e aggrovigliata. Era a corto di denaro, elemosine non poteva più farne, sicché, distogliendo lo sguardo, lo posava sull'orizzonte piatto, cielo immenso, immensa terra, qualche accenno di sole paglierino, stagni per ogni dove e boschi neri su collinette grigie. Ritirava la testa dallo sportello, l'abbandonava in quella positura di stanchezza estrema che l'aveva dispensata dalle chiacchiere coi compagni di viaggio dopo la malattia di Noah. Non le pareva che la meta del lungo cammino si avvicinasse e di nuovo le ripugnava il futuro in cui di nuovo sarebbe persona nominata e distinta, fonte di dolore. Si cominciò ad andar per acqua, per certi canali rasi, in gran barche tirate da cavalli enormi schizzati di fango fin sulle criniere bionde o grigio argento. Arrivarono a Calais a mezzogiorno, essendosi levati di notte, e la luce pareva di primo mattino. Un altro porto, ma i segni del traffico quasi non avevano colore, disegnati sul grigio dell'aria, in nero inchiostro e appena lumeggiati di giallo. Anche qui, intrico innumerevole di alberi e cordami, alti castelli di navi all'ancora, ma quell'ingrifarsi, torcersi, arricciarsi di prore, ornate, vele, argani formidabili, sembrava attutito, insordito e insieme giustificato e consunto dal rigore dell'aria e della luce, dalla densità dei vapori che a tratti lambivano l'acqua e la lasciavano ritirandosi liscia e nera. Ecco il mare oceano, sentenziò guardandosi in giro il fiorentino che aveva sempre parlato in tutte le lingue, e Artemisia avrebbe voluto essere turca per non intenderlo. Quella parola le fece impressione, non ci aveva ancora pensato che quel mare si chiamava oceano, l'oceano dei viaggi avventurosi e senza ritorno. Assaggiando per la prima volta birra calda e la risputò nel fazzoletto, sulla soglia di una baracca nera, lucida, senza fuliggine, sentì di fare un altro passo verso una libertà sconfinata e disumana, l'affrancamento dai ricordi. Improbabile l'esistenza di Napoli, della sua casa, di Porziella da lei partorita. Difficile, quasi impossibile, richiamarsi a quel gesto di Antonio, già pervicace e intollerabile, che tocca e stringe la mano della moretta, sfocata ogni memoria, dalla più lontana alla più vicina, come stesse calando in una valle, e la discesa è dolce, ma poco a poco il cielo si restringe e non è più largo di un secchio. Dicono che si aspetta per imbarcarsi la marea alta, che ha cosa nuova alle sue orecchie e di cui si trova curiosa come una bambina che non pensi né a ieri né a domani.